America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. We hear such person saying that, etc. This is an ongoing work which for which we will we hope to have a first rough ideas in matter of days. Ecco, le notizie di questa mattina in America, devo dire, si concentrano sull'incidente aereo in Francia. È stato il New York Times che per primo ieri notte ha dato questa notizia, che uno dei piloti era uscito dalla cabina di pilotaggio e poi non è potuto rientrare. Ve ne ha parlato Simone poco fa, ci torno sopra perché devo dire ha colpito molto l'opinione pubblica americana, perché le misure di sicurezza che chiudono le porte delle cabine di pilotaggio ci sono proprio per proteggere i piloti e l'aereo da eventuali attacchi terroristici. Sono state le ricostruzioni attraverso quello che si è recuperato della scatola nera, ce ne sono due, come sappiamo, una relativa alla rotta di volo che è danneggiata e l'altra invece relativa alle voci che invece è stata recuperata intatta. Ecco, il New York Times, il quotidiano americano, unico al mondo, di questo se ne è parlato molto perché c'è un coté media in tutto questo, è riuscito ad avere questa notizia. Il corrispondente dalla Francia cita fonti militari legate all'inchiesta. A questo punto, come avete ascoltato prima, ci sono ride di ipotesi di ogni genere. Che cosa è successo? Il pilota ha voluto suicidarsi, si è sentito male, ha chiuso la porta dall'interno per non far entrare il suo copilota. E quello che colpisce è che subito prima dell'uscita del pilota dalla cabina, le registrazioni e le conversazioni fra i due piloti sembra che fossero assolutamente normali, pacifiche, tranquille, non c'era alcun problema di nessun genere. Altro elemento, come mai l'aereo non era sul pilota automatico? Normalmente questo tipo di voli, soprattutto quando il tempo è buono, sono su un pilota automatico, quindi la rotta continua, l'aereo procede. È anormale che un aereo a un certo punto cominci ad abbassarsi fino a poi a schiantarsi a piena velocità sulle montagne. E dunque, che è successo? È stato tolto il pilota automatico? Uno dei due piloti aveva davvero dei problemi, voleva suicidarsi? Insomma, non credo che ne verremo a capo presto. Sicuramente ci sono delle inchieste per capire la storia di questi due piloti, soprattutto di quello che è rimasto dentro. Resta il dramma che non abbiamo potuto ascoltare, ma che hanno ascoltato gli inquirenti, il dramma di queste voci e di questi rumori, di questo rumore del pilota che prima bussa leggermente sulla porta, dopodiché bussa in modo molto più energico per richiamare l'attenzione del collega, per farlo entrare. Quando si accorge che non può entrare, quando si accorge che i codici elettronici, non sappiamo neanche se c'erano i codici elettronici di accesso e poi la porta poteva essere comunque chiusa e bloccata dall'interno, si sente questo rumore fortissimo dell'altro pilota che cerca di buttar giù la porta e non ci riesce, poi lo schianto. America 24. Karim al-Nouri, a leader of the Iraqi volunteer forces, says liberation of remaining areas of the city of Tikrit will be over within the next four days at most. Ma dal punto di vista americano, oggi la notizia politica dominante riguarda quello che sta capitando in Medio Oriente, perché secondo me c'è stata una svolta molto importante su due fronti, sul fronte dello Yemen e sul fronte iracheno / siriano, ma in questo caso iracheno. Che cosa è successo? Che gli Stati Uniti hanno cominciato ieri notte, su ordine specifico del presidente Barack Obama, a bombardare Tikrit. Tikrit, lo ricorderete, era la città di origine di Saddam Hussein, quindi sul piano simbolico ha un'importanza molto molto rilevante. E Tikrit era stata presa dai militanti dell'ISIL, dagli estremisti islamici dell'ISIL, ed era sotto attacco nelle ultime settimane delle truppe iraniane, sciite iraniane, che stavano per riconquistarla. Questo creava un problema molto serio, perché se gli iraniani avessero preso Tikrit, gli iraniani sono sciiti, ricordiamolo, ci sono queste due fazioni, da una parte i musulmani sunniti e dall'altra quelli sciiti, e queste due fazioni trovano una loro riproduzione un po' dappertutto nel mondo arabo. Per esempio in Iraq gli sciiti sono una maggioranza, i sunniti sono una minoranza. Lo stesso succede in Siria, dove invece la situazione è opposta. Dunque c'è questo elemento di contrasto. A un certo punto gli Stati Uniti hanno deciso di non intervenire. intervenire perché sennò avrebbero dato l'impressione di aiutare gli sciiti a prendere Tikrit. C'è stata un'azione diplomatica, il presidente Haider al-Abadi, il presidente iracheno, ha chiesto l'intervento americano, gli Stati Uniti hanno posto come condizione un ritiro delle milizie sciite che stanno combattendo, le milizie sciite locali sotto il controllo di strateghi iraniani. Ebbene, è successo l'impossibile, perché Qassem Soleimani, il comandante di Quds della forza rivoluzionaria islamica, ha fatto marcia indietro e si è ritirato da quella zona. A questo punto c'è una battaglia violenta fra sunniti e sunniti, fra sunniti, diciamo così, di governi regolarmente eletti e invece quelli del movimento dell'ISIS, che vuole stabilire, vuole installare il califfato. La battaglia è molto importante, presenta molti rischi, ma è un passo obbligato, perché dopo Tikrit, se si riuscirà a conquistarla, gli americani quasi sicuramente si muoveranno su Mosul, altra città sunnita presa dai ribelli dell'ISIS e di fatto considerata loro capitale. Ma quello che sta succedendo su Tikrit ha un suo contrappunto, secondo me non casuale, cioè l'attacco di una coalizione di forze sunnite di nuovo nello Yemen. Sentiamo. A coalition of Gulf nations led by Saudi Arabia has launched a military operation in Yemen. They're aiming to stop the advance of Shia Houthi militants who control the capital and the coastal city of Aden. Lo Yemen, ve lo dicevo in apertura di trasmissione, è la seconda svolta importante. C'è una guerra civile, il presidente Abdurrahbu Mansour Hadi si è rifugiato a Gibuti, di nuovo il movimento che sta cercando di prendere il potere nello Yemen è di matrice sciita, e dunque non possono gli stati arabi islamici sunniti consentire che questo succeda. Si è creata una coalizione, lo ricorderete, tempo fa ho detto a questo punto toccherà ai paesi arabi islamici creare una coalizione contro queste manifestazioni di estremismo e per la stabilità. Ebbene, l'alleanza c'è: Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Giordania, Egitto, Sudan, Marocco e Pakistan si sono messi insieme e hanno fatto partire sempre ieri, per questo vi dicevo la cosa non può essere casuale, un attacco frontale, un attacco aereo per cercare di liberare lo Yemen da questa invasione, tra virgolette, di sciiti. Ognuno ha contribuito con diverse forze aeree, la più forte è quella dell'Arabia Saudita con 100 velivoli. Cosa resta fuori? La Libia, Siria, Iraq e Yemen destabilizzati, il quarto paese è la Libia. Per ora non succede granché, sappiamo che c'è questo tentativo di creare un governo di coalizione nazionale, ma vi do un appuntamento, perché ne riparleremo presto. Secondo me si troverà un approccio, una soluzione alla Libia durante il viaggio del nostro presidente del Consiglio Matteo Renzi alla Casa Bianca il prossimo 17 di aprile, e ci sarà probabilmente un ruolo politico e diplomatico per l'Italia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, so che in Italia il tempo insomma un po' grigio, soprattutto al nord, in America pure. L'aria di tempesta che abbiamo dal Medio Oriente non ci rasserena, quindi dobbiamo, come dire, aspirare a un po' di sole. E dunque vi propongo da Hair, Let the sunshine in. Lasciate che il sole risplenda. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram.